Non possiedi una patente da vero rocker? E sei perplesso? Hai una patente da vero rocker, ma ne vorresti un'altra? E sei indeciso? Hai una patente da vero rocker, ma vuoi fare il test attitudinale per dimostrare ad Ari e le freak che non ti interessa della patente da vero rocker? Titubi? Titubi? Titubi o titubi? Insomma, rompi gli indugi, non titubare! Vieni, se hai fegato, sabato 1 marzo al garage di via Marelli 280 a Sesto San Giovanni, dal vivo! Ipei! Roberto Fricantoni! Ariel DJ! Il test attitudinale e la patente da vero rocker! Il calendario 2008, l'anno della svolta, e la redazione di Pane, Burro e Rock and Roll al completo, con anche Mister Trombetta e il mitico Isaac Rizzi in persona. Non mancare per nulla al mondo. Chi manca è un titubone. Rock FM. Signore e signori, direi che sono le 8, seconda ora per noi. Pane, burro e rock and roll. Rock breakfast, la tua colazione rock, la squadra al completo, eccoci qua. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM, perché conviene e fa bene. In diretta fino alle 9 ci siamo appena gustati la replica di Back in Black con la bocca, o la macchina degli SMS in super tilt per i messaggi che stanno arrivando. Vedrò di renderne conto nella seconda ora di quest'oggi. Buona giornata anche a voi che vi svegliate più tardi. Da me, Spadino Freak, Mister Trombetta, Isaac Rizzi e tutti quanti. 21 di febbraio 2008, l'anno della svolta, da vivere intensamente, visto che nella prossima mezz'ora manderemo in onda la terza puntata di Zorrock, la nostra radionovela di riferimento. In molti hanno avuto paura che non ci fossero più altre puntate, ma siamo riusciti a convincere Garavelli a registrare almeno la terza, quindi fino a 3 ci siamo arrivati. Oggi sentiremo la nuova puntata. Iniziamo anche quest'oggi con brano particolare, ma attenzione che quest'oggi non lo abbiamo fatto selezionare Easy Rider, anche se in qualche modo c'entra Easy Rider anche col brano che sto per proporvi, perché loro si chiamano The Zen Circus. Se siete fedeli radioascoltatori di Rock FM, forse vi ricorderete il mio programma pomeridiano che si chiamava Frigidaire. Era famoso, oltre che per essere un bellissimo programma, anche per una sigla che era: sono le 3, turutun tun tun, incomincia Frigidaire, turutun tun tun, sono le 3. Sigla che non ho più potuto riutilizzare in Pane, Burro e Rock and Roll, perché è dalle 7 alle 9, quindi non ci azzeccava nulla. Gli amici da Zen Circus hanno pubblicato un nuovo lavoro e sono contentissimo di presentarvelo con questa traccia numero 4 che si chiama Punk Lullaby. Tra poco vi spiego perché c'entra in qualche modo anche Easy Rider. Degli Zen Circus, Medaglia. Hanno fatto un disco con Brian Ricci dei Violet Femme. Medaglia. Si titola Punk Lullaby, traccia numero 4 di questo album che si chiama Villa Inferno. Sono molto contento di proporre agli ascoltatori del mattino Punk Lullaby. Era Punk Lullaby, perché medaglia? Perché oltre a fare un disco con Brian Ricci, ripeto, Violet Femme, gli Zen Circus ci vanno anche in tournée. E non solo, medaglia, perché la voce femminile che avete sentito in questa Punk Lullaby è di una certa Kim Deal, la bassista dei Pixies. Medaglia. Mi sarebbe piaciuto tanto fare un brano con Kim Deal. Medaglia. Va bene, l'hanno fatto gli Zen Circus. Perché c'entra qualcosa Easy Rider? Perché ho costretto il collega Mox Cristadoro a ospitare gli amici Zen Circus e il buon Brian Ricci nel suo appuntamento all'ora di pranzo. L'appuntamento è fissato per lunedì prossimo, fatemi guardare sul calendario della svolta, lunedì 25 febbraio, lunedì prossimo, all'interno di Easy Rider, The Zen Circus e Brian Ricci, sponsorizzati da Pane Burro e Rock and Roll. Medaglia. Perché io non posso fare un disco con Kim Deal? Uffi. By the record machine, I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it would be long. He was with me, yeah, me. And I could tell it would be long. He was with me. His name, that don't matter, he said, 'cause it's all the same. So I'll take you home where we can be alone. And next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me. Oh, maestro Fricantoni, un archetipo della comicità. Ma sì, quando si scherza un po' sulle disgrazie altrui. Ma sì, diciamolo, tanto poi ci fanno tenerezze e ci piacciono. Stiamo i nani. Dei nani, ecco, i nani. Un classico. Fanno ridere. Quanto mi piacerebbe lavorare con un nano, dovesse andare male la carriera di Pane, Buono e Rock and Roll, sicuramente la sostituirò con uno di essi, anche se ci siamo molto vicini. Sigla dello strano ma vero di oggi. Questa non per paga. Dire che è basso. Questa me la paga. Vada col titolo. Svezia, ladro in miniatura terrorizza pendolari. Se vi trovate in Svezia e per un motivo o per l'altro dovete prendere un pullman di linea, tenete gli occhi ben aperti e se possibile il bagaglio ben stretto fra le vostre mani. Stando a quanto riportato sul tabloid tedesco Der Spiegel, infatti, negli ultimi mesi e nei soli bus della Swedbus si starebbero registrando una miriade di piccoli ma spiacevolissimi furti. Si sospetta vengano commessi da un nano o da un bambino che, agevolato dalle proprie dimensioni, riesce a farsi caricare nel bagagliaio di bordo, chiuso all'interno della valigia. Una volta che il mezzo è in movimento, ha spiegato un dirigente della società di trasporto, il clandestino esce dalla sua borsa, ispeziona tutti i bagagli nella speranza di trovare qualche oggetto di valore, arraffato quanto più possibile, l'aduncolo tornerebbe nella propria valigia e attenderebbe in silenzio che il suo complice lo scarichi al capolinea. La polizia sta indagando. Hai capito che bella idea, Frick? Che c'è da dire che se ci avevi quei 20 centimetri di meno potevamo rischiare di farcela, eh? Ma infatti, ma chi sarà? Ci stai in una valigia, Frick? Ma non lo so, dovremmo provarlo. Lei glissa sulle battute dell'altezza. Sì, sulle battute dell'altezza, perché ne vorrei fare un altro un po' razzista. Vuole? La dica, via. Che fosse un bambino rom. Adesso i rom ci tolgono l'ascolto, la parola, l'ascolto, tutto qua. No, perché loro praticano questo tipo di sport, no? Con il furtarello. Il furtarello del bambinello. Il bambinello furtarello. Razzista, preferivo pensarlo nano. È vero. Forse nano. Ma, sì. Ma la faccio ridere così basso? No, non tantissimo. Ecco. A basso di tono o di altezza, dice? Lo so benissimo! Maledetto Ariel! Pare burrera che ro! Pare burrera che ro! Mazza che ci caga sto programma, raga! a Mr. John Lennon. Yeah. Che vi accompagna man in manetta nella vostra giornata. In questo nuovo giovedì 21 di febbraio. Positivo! Canticchiare la canzoncina di Frigidaire ha spezzato il cuore a una dozzina di radioascoltatori. Prometto non lo farò più. Questo addirittura scrive: mi manchi, piccola afona mucca Camilla. Anche Manuela dice: sto piangendo ricordando Frigidaire. Dai, pagate per favore, non facciamo così. Però in molti richiedono la mucca Camilla, ci penseremo. Intanto prosegue Pane, Burro e Rock and Roll, tornando a salutare un amico che abbiamo invitato in diretta settimana scorsa. Si chiama Luca da Milano. Ciao Luca. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Luca tra l'altro oggi ha anche un problema, ma lo affrontiamo a fine intervento, Luca. Tanto sai che i radioascoltatori ti possono dare una mano. Con Luca parlammo di malaricordi.com, che è un sito internet curato da lui, è un sito che si occupa di promuovere un evento organizzato per mercoledì prossimo, 27 febbraio, qui a Milano, dove trattate della malavita milanese del dopoguerra. Esatto. L'ho detto giusto. Esatto. Malavita romantica. Settimana scorsa ci avevi parlato di queste tute blu di via Osoppo che rapinavano le banche col mitra ma facendo un rumore con la bocca, se ricordo esatto, bene. Esatto, sì, hanno fatto un assalto a un furgone portavalori nel 58. Oggi di chi ci racconti? Oggi potremmo parlare di Luciano Lutring. Ovvero? Il solista del mitra. Il solista del mitra. Sì, sono sì, molto sì. Curioso. Cosa combinava? Ma praticamente lui andava, sua mamma voleva che lui facesse il violinista. Sì. E solo che lui non ne voleva sapere assolutamente. Allora andava in giro con questa custodia di violino con dentro un mitra per andare a rapinare le banche. Sì. Sì, sì. Guarda, era un personaggio, comunque anche conoscendolo, un personaggio di un'altra epoca, si vede proprio. Con lui è stato ospite l'appuntamento precedente. Esatto, il 23 gennaio è stato lui presente. È stata un evento veramente comico quasi, perché lui è un cabarettista. Ah, sì? Sì, simpaticissimo, parla in milanese. Sì. E racconta la sua vita veramente in maniera sarcastica, veramente divertente da vedere, bello. Senti, questo mitra lo usciva spesso e volentieri dalla custodia del volino oppure no? No, lui non ha mai sparato un colpo, nemmeno lui. Anche lui, vedi? Anche lui. È stato ferito in Francia quando l'hanno arrestato. Sì. Gli avevano sparato nel fianco, ma lui non ha mai sparato un colpo. E come faceva a far capire che lì dentro c'aveva il mitra? Perché lui praticamente faceva anche gli assalti alle gioiellerie, quindi le spaccate erano praticamente con un mattone, con qualcosa, infrangere la vetrata della gioielleria. Sì. Per poter rubare, e quindi spesso veniva fatto di notte questo lavoro, quindi non c'era neanche bisogno di tirar fuori il mitra per dimostrare la sua, tra virgolette, potenza, la sua forza. Mi sembra decisamente affascinante questo immaginario della malavita milanese degli anni 50, e se siete interessati, il 27 febbraio c'è il secondo appuntamento, anche se mi dicevi che è già sold out. Sì, purtroppo sì, abbiamo chiuso le prenotazioni perché veramente c'era tantissima richiesta di gente. Va bene, nel caso comunque qualcuno fosse interessato, su malaricordi.com trovano i tuoi contatti, vi raccontate la rava e la fava e poi al massimo organizzate un terzo appuntamento. Sì, infatti stiamo già pensando di farlo per i prossimi periodi. Perché per il 27 verranno alcuni delle tute blu e invece avresti poi anche altri personaggi da tirare in mezzo? Ma sì, ci sono altri personaggi, di cui uno è già venuto una volta, che anche lui è un signorone milanese, anche lui simpaticissimo, il Pelé. Sì, il Pelé. Il Pelé. Senti, allora restiamo così, Luca. Lunedì o martedì prossimo ci racconti del Pelé. Va benissimo. Mentre occupiamoci del tuo problema personale, che non c'entra nulla con la malavita milanese, Luca mi deve prendere l'aereo ed è la prima volta. Sì, guarda, sono in panico. Sentiamo, l'abbiamo sentito via SMS e in fuori onda, parecchio in sbattimento. Qual è il tuo problema fondamentale? Che non sai se puoi portare gli anfibi. No, nel senso, io parto con gli anfibi, posso salire, non è che mi... Sì. Guarda, mi sento di risponderti io sì. Ok. Cioè, non è mai. Al massimo te li fanno togliere per vedere se dentro hai una mini bomba, ma niente di Oddio. Più. Altri dubbi avevi? Ma tra i dubbi, la digitale si possono fare le foto su, perché c'è chi dice sì, c'è chi dice no, non si sa. Questa non lo so, vediamo se risponde qualche hostess. Si sa mai che prendo pure il numero di telefono. Esatto, esatto. Luca, ci sentiamo, dimmi, dimmi. No, no, e poi il panico di dover partire in aereo, cioè, no, non sono mai partito. Luca, no sbattimento, per favore. Non pensarci. Oppure potresti fare come facevano nell'A-Team, Pie Baracus. Tu vai da solo in aereo? No, con un mio collega. Ecco, non ti ricordi cosa facevano a Pie Baracus? Tipo gli davano... facevano drogare lì. Sì, lo drogavano pesantissimamente e lo mettevano su a dormire. Potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere, ci penserò allora, dai. Fuori onda ti do un paio di numeri di telefono di spacciatori milanesi. Ci sentiamo settimana prossima, ciao! Okay, ciao, buon weekend! Grazie. Quella del numero degli spacciatori ovviamente era una battuta, era una butade. Tra pochissimo appuntamento con il test attitudinale di quest'oggi. malaricordi.com. Andateci, interessante. Yeah. scusi maestro, è possibile vedere la sua patente da vero rocker? Assolutamente no, me la tengo ben cara. Ma lei come ha fatto per avere una patente da vero rocker? Ho risposto esattamente, le sembrerà strano, non sia ironico, ma ho risposto esattamente a tutte le domande del famoso test attitudinale. Oh là là, capita veramente a fagiolo, perché avrei una domandina per quest'oggi. Generi musicali, questo è il titolo del test di quest'oggi. Parliamo dell'honky tonk. Honky tonk. Esatto, termine col quale si definisce uno stile particolare di musica suonata al pianoforte. Gli Rolling Stones ci hanno fatto anche una canzone, Honky Tonk Women. La musica honky tonk è caratterizzata da una timbrica particolare, ad esempio quella dei pianoforti verticali dell'epoca del Far West o nelle colonne sonore delle comiche. È il precursore del ragtime, forma musicale che è nata agli inizi del Novecento e che costituisce la progenitrice del jazz. È assimilabile anche per certi versi al country o al blues, ma la domanda che vi poniamo è: sapreste dirci da cosa deriva il termine honky tonk? Ipotesi A: Honky Tonk Woman era il soprannome delle prostitute dell'epoca del Far West, celebrate anche, come detto prima, da una famosa, anzi celeberrima, canzone dei Rolling Stones. Oppure ipotesi B: Honky Tonk, al tempo del proibizionismo americano, era il termine col quale si indicavano le fabbriche clandestine e abusive di gin. Oppure, infine, ipotesi C: Honky Tonk è il nome di un celebre pianoforte verticale dell'epoca western. Da cosa deriva il termine Honky Tonk? Restate con noi, la risposta esatta ve la diamo tra poco, e cioè la soluzione a poco dopo. Dimmi Frigo, ma se facciamo la band poi dobbiamo andare in tournée? Certo, e io non vedo l'ora di andare in tour. Ci pensi? Sesso, droga e rock and roll. Soprattutto sesso e droga, sbafo. Ma scusa Rogna, la roba buona ce la danno già qua gratis gli umani. Io coglierei l'occasione del tour per parlare dei problemi che affliggono noi topi da laboratorio, affinché tutto il mondo ne venga a conoscenza. Maledetti umani, questa volta la pagheranno. Beh sì, è vero, in effetti la roba ce la danno già, però io voglio pagarla, come fanno le vere rockstar. Spacchiamo tutto, sex and drugs and rock and roll. I rattori spaccano tutto! Sex and drugs and rock and roll, spacchiamo tutto! Prossimamente, Frigo e Rogna fanno la band. Il gruppo.